30 minuti in cronaca di Gigi Donelli. Il procuratore egiziano Mustafa Suleiman ha detto di avere prove solide del coinvolgimento dell'ex presidente Hosni Mubarak nella morte di centinaia di manifestanti contro il regime del Cairo. L'accusa ha confermato che Mubarak, Adli, l'ex ministro dell'interno, e sei altri esponenti responsabili della sicurezza hanno contribuito e incitato a sparare contro la folla. Questa indicazione potrebbe essere il preludio alla richiesta della pena di morte per l'ex rais egiziano. Buonasera, benvenuti a questo appuntamento con 30 minuti in cronaca che, come avete sentito, ci riporta nel Mediterraneo orientale. Abbiamo preso spunto da questa notizia, dall'attualità dell'Egitto, per parlare di Mediterraneo in una fase che di fatto segna l'anno dal tempo delle rivolte. Era la Tunisia, il dicembre del 2010, si commentava e ragionava allora sull'effetto, su come appunto avrebbe attecchito anche nelle regioni, nei paesi circostanti. Beh, a un anno di distanza, quella sequenza di paesi che sono appunto Tunisia da una parte, Libia, Algeria in maniera molto diversa, Egitto, sono profondamente cambiati, per poi non parlare di paesi che ci spingono ancora oltre verso Israele, la Turchia, l'angolo vero e proprio del Mediterraneo. Ma insomma, il Mediterraneo è al centro di questo nostro appuntamento e lo facciamo attraverso un ricercatore che ha appena pubblicato un volume dal titolo Il Mediterraneo degli altri, le rivolte arabe tra sviluppo e democrazia. Questa sera è con noi Roni Amaoui. Amaoui è amministratore delegato di Medio Factoring di Intesa San Paolo, ma è professore a contratto di economia monetaria all'Università Cattolica del Sacro Cuore. Grazie, buonasera e grazie di essere con noi. Buonasera. Insomma, un anno fa sembrava un fuoco che si accendeva, e peraltro il paragone involontario, la citazione involontaria anche dell'inizio drammatico di questa tragedia con la protesta in Tunisia. E oggi siamo all'ipotesi di richiesta di condanna a morte per il rais egiziano. Un anno davvero tumultuoso. Sì, un anno molto tumultuoso, un anno che può colmare un decennio o di più di anomalia dell'autocrazia araba, come diciamo nel libro, perché se è vero che fino alla metà degli anni 70 gran parte dei paesi del mondo erano governati da regimi autoritari, poi negli anni successivi, diciamo, la democrazia ha guadagnato terreno in molte aree del mondo. Vedi la caduta dell'impero sovietico, vedi la caduta di molte dittature nell'America Latina, persino in Asia e persino in Africa abbiamo avuto molti regimi che hanno avuto un'evoluzione di natura democratica, mentre invece i paesi del Medio Oriente rappresentavano un'anomalia veramente importante e non avevano seguito quello che, diciamo, Samuel Huntington, che è il famoso politologo americano, aveva definito la terza ondata di democratizzazione. Ecco, nel Medio Oriente tutto questo non era avvenuto per decenni e rappresentava effettivamente nel panorama mondiale un'anomalia assolutamente eccezionale. Ecco, tutto questo direi reso ancora più acuto proprio dalla vicinanza fisica, dal contatto. Lei ha citato le ondate, mi vengono in mente anche le ondate di migrazione che sono sicuramente un elemento di confronto. Insomma, così vicini eppure a lungo così lontani e direi a questo punto così lungamente frustrati. L'elemento della frustrazione torna con prepotenza anche nel vostro lavoro perché il Mediterraneo degli altri, Roni Amaoui l'ha scritto con Luigi Ruggerone, lo ricordo. Dunque, frustrazione. Assolutamente, frustrazione anche perché, diciamo, l'anomalia non riguardava solo o non riguarda solo i vincoli alle libertà politiche, quindi elezioni, pluralismo, efficienza del governo, ma anche i vincoli alle libertà civili, quindi libertà di espressione, di associazione, principi di legalità, principi di libertà personale e infine anche libertà economica. Quindi noi adesso noi ci soffermiamo molto sulle libertà politiche, sulle elezioni, su Mubarak eccetera, però il problema diciamo dei paesi del Medio Oriente era ed è per certi versi ancora adesso un problema più generale di libertà, e questo secondo me è importante sottolinearlo. Ecco, assenza di libertà economica che cosa significa? Principalmente cattiva distribuzione della ricchezza o c'è qualcos'altro? Ma no, direi che c'è anche qualcos'altro, nel senso che in molti paesi, per esempio, l'iniziativa privata riceve forti ostacoli al suo sviluppo, abbiamo burocrazie molto, molto importanti che ostacolano l'imprenditorialità privata, abbiamo regimi nei quali padre, figlio, clan, famiglia giocano un ruolo assolutamente fondamentale. Sto pensando per esempio a tutta la penisola arabica, dove effettivamente praticamente l'economia è in mano a pochissime famiglie, o anche l'economia egiziana, dove l'esercito gioca un ruolo fondamentale non solo come elemento di stabilità diciamo sociale, ma anche dal punto di vista economico. Insomma, il 12-13% dell'economia egiziana è in mano all'esercito, quindi questi governano settori veramente fondamentali nella vita del paese. Quindi tutte le libertà, anche quella economica, sono state per decenni in maniera più o meno diversa fortemente ostacolate. Ecco, a questo proposito l'esercito in Egitto come una sorta di famiglia, proprio in queste settimane alle prese con un percorso delicatissimo che sicuramente seguiremo anche nella definizione dei rapporti con i vincitori delle elezioni, Fratelli Musulmani, ma tornerei a poco più di un anno fa, Abu Said, la drammatica protesta di chi ha scelto un suicidio rituale, di fatto il giovane commerciante per forza, soprattutto un giovane disoccupato che manifestò in quella maniera drammatica, che poi innescò appunto la protesta in tutto il paese, il disagio di una generazione. Ancora una volta siamo di fronte a un confronto, come dire, senza dialogo tra giovani e i vecchi gerarchi, i vecchi leader. Sì, certo, siamo a confronto con una lotta anche intergenerazionale, culturale, e qui diciamo c'è un altro elemento molto importante, cioè questi paesi arabi in questi anni non è vero che non avevano fatto nessuna riforma, erano state fatte delle riforme e c'era stato anche un certo sviluppo economico, anzi noi cerchiamo molto di legare lo sviluppo democratico allo sviluppo economico, ed in effetti questi paesi avevano raggiunto quella che noi definiamo la soglia minima per poter partecipare al gioco democratico, che sono qualche cosa che gli studiosi indicano tra i 4.000 e i 6.000 dollari a pro capite. E questo sviluppo poi si è accompagnato anche a uno sviluppo di natura culturale e sociale, quindi gente che era diventata alfabeta, si era alfabetizzata, età della vita che si era allungata, condizioni sociali che erano mediamente migliorate da molti punti di vista, tassi di mortalità che erano diminuiti e così via. Ed è questo, diciamo, anche un elemento importante per capire le rivolte arabe, perché probabilmente non ci sarebbe state rivolte arabe se questi giovani non fossero stati istruiti, se non avessero saputo leggere, scrivere e quindi navigare su internet e tutte le altre cose che leggiamo sulla rete. Però voglio dire, lo sviluppo economico e lo sviluppo politico sono due cose che vanno strettamente l'una con l'altra, e non potremmo capire uno se non riusciamo a capire l'altro. Questo è un elemento cruciale della nostra analisi, ecco, tentare di valutare questi due aspetti. E anzi, l'anomalia di questi paesi è che avevano oramai un tasso di sviluppo economico che gli avrebbe dovuto permettere già da qualche anno di avere uno sviluppo di natura democratico. Insomma, una sorta di ritardo rispetto all'evoluzione stessa di questi paesi che probabilmente in parte almeno spiega un po' anche l'esito tumultuoso di questi 12 mesi. Le volevo chiedere il fattore religioso. Secondo lei, e chiaramente in questo caso stiamo parlando dell'Islam, è un fattore diciamo determinante nello sviluppo, insomma, in quest'anno vissuto così pericolosamente? Ma direi assolutamente sì, è un fattore molto importante per vari motivi. Innanzitutto perché gli arabi sono delle persone molto religiose. Guardi, questo è un dato che viene fuori da tutte le analisi di sociologiche, cioè intanto i musulmani mediamente sono più religiosi dei cattolici o dei protestanti o dei buddisti, considerano la religione molto importante, considerano Dio molto importante nella loro vita, partecipano in massa alle cerimonie religiose almeno una volta alla settimana, come vediamo regolarmente il venerdì. Insomma, quindi abbiamo paesi che culturalmente sono dove la gente crede molto ed è molto religiosa, quindi la religione dal punto di vista culturale gioca un ruolo oggettivamente molto importante, e questo non ce lo dobbiamo mai dimenticare. Cioè, noi magari sogniamo un Medio Oriente laico e cose, invece in Medio Oriente dobbiamo, come dire, tenere conto del fatto che è per vari motivi su cui potremmo anche discutere, ma è una regione molto religiosa, dove la gente crede molto, e quindi è evidente che questo gioca un ruolo molto importante. Un ruolo importante in questa storia, ovviamente che non è quella di quest'anno, ma sul quale noi invece ci concentriamo in questi minuti. Il Mediterraneo degli altri, torniamo tra qualche momento con Roni Hamaoui, magari ripartiamo da un altro aspetto che lega economia e democrazia. Insomma, quanto bisogna essere ricchi per essere realmente democratici? 30 minuti in cronaca. Ancora buonasera da Gigi Donelli, bentornati all'appuntamento con 30 minuti in cronaca. Dunque, il Mediterraneo che cambia e come cambia, ne parliamo questa sera con Roni Hamaoui, che vi ho ricordato è professore a contratto di economia monetaria all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, ha pubblicato appunto Il Mediterraneo degli altri con Luigi Ruggerone. Dunque, quanto bisogna essere ricchi per poter essere democratici? Questa è una bellissima domanda, vorrei prenderla alla lontana. Diciamo che esiste una vastissima letteratura che risale addirittura ai tempi di Aristotele, e noi la citiamo per poi andare giù a Condorcet, gli Illuministi, eccetera, che effettivamente trovano, perlomeno loro ipotizzavano, una forte correlazione tra ricchezza e democrazia. Questa ipotesi poi hanno trovato negli anni una forte convalida, nel senso che tutte le analisi economiche e sociologiche o sociopolitiche mostrano effettivamente una forte correlazione tra le due variabili. Quindi PIL da una parte, se vogliamo, come indicatore, poi vari indicatori di democrazia. E questa è un po' la teoria della modernizzazione, come la chiamano i sociologi, che noi cerchiamo di rivisitare, ed effettivamente troviamo una forte conferma. Detto questo, poi esistono, come dire, due ipotesi contrapposte. Una che ti dice sostanzialmente che se sei ricco puoi diventare democratico, non è così, come dire, meccanico, adesso io sto semplificando. E dall'altra parte un'altra ipotesi che ti dice ma che se sei democratico questo aiuta la ricchezza, aiuta a farti crescere. In realtà la prima ipotesi trova moltissime verifiche, cioè nel senso che effettivamente quando si raggiungono, come le dicevo prima, i 4, 5, 6 mila euro pro capite, è molto probabile che è molto probabile diventare più democratici. Molto meno verifiche trova invece l'ipotesi che la democrazia porti di per sé a ricchezza, però la correlazione tra le due variabili è oggettivamente... Ecco, anche perché insomma faremo fatica a spiegare la Cina, tanto per... Faremo fatica a spiegare la Cina, però ecco, diciamo, queste cose poi vanno prese tutte con molta attenzione, perché poi la storia, la geografia, molte altre variabili giocano un peso determinante, quindi questa relazione che le dicevo va guardata con molta attenzione, sapendo che è una relazione molto complessa dove possono infilarsi tantissime cose, tanti altri fattori. Anche altri fattori, per esempio la geografia gioca un ruolo molto importante. Paesi, per esempio, che sono stati colonizzati in un certo modo hanno avuto più facilità ad essere democratici di quanto lo sono stati, a diventare democratici di quanto lo sono stati altri che invece sono stati colonizzati in una maniera diversa, perché in alcuni paesi i paesi colonizzatori avevano interesse ad esportare, come viene detto, le loro istituzioni. Vedi gli Stati Uniti, vedi il Canada, vedi l'Australia, l'India, insomma questi paesi qua, perché poi gli inglesi volevano andare a vivere in questi paesi. In altri paesi c'è stato molto meno interesse ad esportare le proprie istituzioni democratiche, perché erano o luoghi inospitali dove la mortalità era molto alta, oppure semplicemente a cui non interessavano. Per esempio, moltissimi paesi della penisola araba non sono mai diventati neanche delle colonie, ma sono rimasti semplicemente dei protettorati, che vuol dire che sostanzialmente il governo veniva affidato a dei rais locali, e quindi non c'è stata esportazione, diciamo, delle istituzioni democratiche. Un buon punto di transito sicuro poteva essere più che sufficiente. Parliamo allora di relazioni proprio tra questo sud del Mediterraneo, di cui di fatto stiamo parlando questa sera, e il nord, l'Italia ovviamente, ma per estensione anche l'Occidente nel suo complesso. Ancora poco più di un anno fa, Gheddafi, Mubarak, insomma ci vuol poco a memoria per ricordare quanto fossero entrambi esempi di stabilità, punti fermi nella regione, referenti economici di primo livello. Oggi Gheddafi appunto è morto, è stato ucciso mentre fuggiva a Sirte, Mubarak rischia la condanna a morte. Ecco, siamo in una fase anche tra trasformazione ma anche vendetta. E l'Occidente come si pone oggi secondo lei rispetto a queste trasformazioni? Ma io credo che l'Occidente si sia posto questa volta con una certa, oserei dire, delicatezza, nel senso che mi sembra che rispetto alle esperienze passate in cui ci sono stati interventi pesanti, in cui effettivamente si sono fatti molti errori, e l'Occidente ha grandi responsabilità. Per esempio, se uno guarda la storia persiana o iraniana si accorge di quanta responsabilità ha l'Occidente. Direi che in questa fase invece c'è stato un generale supporto alle istanze dei rivoltosi, un'attenzione fino adesso e un intervento tutto sommato abbastanza delicato e moderato, solo quando effettivamente ce n'era estremo bisogno e te lo chiedevano in maniera forte. Quindi io do un giudizio tutto sommato positivo in questa fase. Molto dipende invece dall'attitudine di quei paesi, ed è lì che noi facciamo un'analisi più attenta. Per esempio, distinguiamo molto tra regimi monarchici che si presentano molto più stabili invece di regimi non monarchici. Se lei guarda con attenzione si accorgerà che insomma tutte le monarchie hanno subito molto meno gli effetti delle rivoluzioni, diciamo, arabe di quanto non l'abbiano subito gli altri. Marocco in primo luogo, direi. Marocco in primo luogo, ma anche tutte le monarchie della penisola arabica hanno tenuto molto bene, con forse l'eccezione del Bahrain. però mentre invece gli altri paesi hanno subito, le democrazie hanno attutito molto di più i bisogni e hanno saputo interpretare meglio i bisogni della popolazione, un po' perché erano ricche di petrolio, un po' perché effettivamente il re in alcuni casi gioca anche un ruolo religioso molto importante, in altri perché la mediazione politica è più facile per una monarchia, insomma per una serie di ragioni che cerchiamo di spiegare nel testo, la distinzione tra monarchia e non monarchia è molto importante in questi paesi, è in generale importante nel mondo, ma in questi paesi particolarmente. E gioca un ruolo di ammortizzatore. Assolutamente, di ammortizzatore politico, sociale, eccetera, eccetera. Altro elemento molto importante ovviamente sono le ricchezze naturali, nel senso che un paese molto ricco di ricchezze naturali da una parte è un ostacolo alla democrazia, dall'altra parte aiuta molto perché effettivamente con tutti questi soldi ti puoi, tra virgolette, pagare il consenso. Quindi è un po' quella che viene chiamata la maledizione delle materie prime, che vale sia in economia, quello che gli economisti chiamano Dutch disease, sia nella politica, nel senso che ostacola un po' lo sviluppo democratico, però diciamo anche qui attutisce un po' le forme di violenza più radicali. Ecco, a Maui sembra, come dire, arrivare dritto dritto, elevando anche le virgolette, al caso libico, acquistare il consenso nei palazzi del potere, devo dire, in maniera assolutamente diffusa. Ci sono state molte polemiche intorno al ruolo di Gheddafi, al governo Berlusconi, eccetera. Personalmente li trovo abbastanza risibili, perché nessuno ha sbattuto la porta in faccia al colonnello, e direi non certo per il suo profilo ma per le sue ricchezze. Oggi, e vorrei, come dire, avviarmi alla conclusione, l'Italia come si trova messa? Ma l'Italia è in una posizione, come dire, intanto geografica straordinaria, siamo una specie di portaerei in mezzo al Mediterraneo e quindi luogo di transito, eccetera, eccetera. L'Italia inoltre culturalmente è ben voluta, cioè nel senso che siamo amati, rispettati, eccetera, quindi abbiamo un ruolo anche culturale molto importante da giocare, in un momento nel quale ahimè invece è l'Europa che fatica a tenere la propria leadership. Quindi io credo che l'Italia abbia delle opportunità straordinarie, anche perché se effettivamente questi paesi diventassero più democratici, per noi sarebbe una grandissima opportunità. In passato, voglio dire, la nostra posizione non è cambiata negli ultimi migliaia di anni. Troppo spesso abbiamo detto che abbiamo un ruolo chiave, una posizione privilegiata, poi però non siamo magari stati sempre capaci di svilupparle. Ci sono delle ragioni per cui questa volta, con questa nuova dirigenza che emerge a sud del Mediterraneo, le cose possano andare meglio? Ma io credo di sì, credo che se noi useremo maggiore trasparenza avremo anche meno paura. Per esempio, guardi, tutta la storia delle migrazioni in Libia si stanno dimostrando per quello che sono state, cioè Gheddafi usava questi poveracci, li metteva sui barconi e li imbarcava quando gli faceva comodo, e noi non abbiamo capito tutto questo e invece forse andava capito meglio. Quindi la cosa importante che noi cerchiamo di fare anche questo libro è cercare di capire bene questi paesi, perché se noi non li capiamo faremo gli errori del passato. Quindi bisogna conoscerli bene nel loro profondo, sono paesi molto complicati dove le semplificazioni non funzionano. Noi abbiamo in mente una struttura omogenea, una sola lingua, una sola cultura, una sola religione, non è così, sono paesi estremamente complessi ed estremamente differenziati, solo se noi riusciremo a capire questa loro diversità riusciremo poi a interloquire con loro. Grazie a Roni Amaui, che ricordo è amministratore delegato di Medio Factoring, professore a contratto di economia monetaria all'Università Cattolica. Insomma, cerchiamo di liberarci un po' di stereotipi, d'altra parte non li gradiamo mai quando sono gli altri a scaricarli su noi italiani, non c'è nessuna ragione per tutelarli quando invece si parla del sud del mondo e soprattutto di questo sud che è proprio davanti ai nostri occhi, di fronte alle nostre coste meridionali. Grazie a Peter Bescapè in regia. 30 minuti in cronaca torna sabato prossimo. Buon fine settimana a tutti.